Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e anche oggi al telefono con noi c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, siamo nel periodo invernale e tu ti sarai accorto, anche il gas delle macchine è aumentato, il GPL. Non so se tu hai la macchina a gas. Vabbè. Non ce l'ho, però controlliamo spesso, siamo molti monitoraggi. È aumentato il gas nelle macchine, il costo delle macchine, ma probabilmente aumenterà anche quello del riscaldamento, quello per che usiamo per cucinare. Sicuramente c'è una cosa che sta capitando in giro, che arrivano, come dire, delle bollette strane che riguardano proprio il consumo del gas. Sì, noi Francesco nelle ultime settimane, ma in particolare nell'ultima settimana, comunque abbiamo quantomeno raccolto due storie emblematiche. Ecco, stiamo avendo varie segnalazioni, ma non solo segnalazioni, casi che seguiamo col nostro ufficio legale, di persone che hanno avuto delle bollette del gas da capogiro per il periodo, perché sono riferite al periodo settembre e ottobre. Ecco, noi abbiamo segnalato due storie in particolare perché sono emblematiche, però in realtà abbiamo varie segnalazioni di questo tipo. Stiamo studiando la situazione perché effettivamente anche noi vogliamo capire cosa stia succedendo e vogliamo soprattutto capire se queste bollette poi siano legate al fatto che stanno cambiando i contatori di tutte le case, dovrebbero cambiare contatori di 30 milioni di case degli italiani. In ogni caso monitoreremo molto bene la situazione. Quello che voglio dire, quello che vogliamo raccontare, sono due storie di due persone anziane. E nel primo caso è una signora anziana mestrina, una pensionata, che ha ricevuto una bolletta per il periodo settembre-ottobre del gas pari a 533,02 euro. Quindi stiamo parlando di una pensionata che tra l'altro in quei due mesi non era praticamente mai stata a casa, come ci ha annunciato lei, perché ha una seconda casa dove va appunto per le vacanze, e quei due mesi praticamente non c'era. Ci domandiamo noi a cosa si riferiscono questi 533 euro. Andando a sbirciare proprio la fattura, notiamo che i calcoli sono un po' strani, perché pensa Francesco che il consumo su questi 533 euro è di 84,73 euro. Altri 125 euro ricadono sotto la voce imposte e IVA, che chiaramente ci sembra una cifra molto elevata. In più abbiamo quasi 300 euro che sono indicate come praticamente dei ricalcoli che noi non possiamo capire a cosa si riferiscano, tanto meno può capirlo la pensionata. Ora chiaramente tramite il nostro ufficio legale siamo andati a chiedere all'operatore, che in questo caso è Enel, di andare a rifare tutti i calcoli di questa bolletta, che ci pare molto strana. La stessa cosa è successa a un'altra pensionata, e questa invece è residente sempre in provincia di Venezia. In questo caso parliamo di una bolletta di 305 euro, e anche qua la cosa strana è che la maggioranza di soldi, esattamente 130 euro, si riferisce a imposte e IVA. Ci sembra una tassazione davvero, davvero eccessiva. E queste sono due storie emblematiche che stiamo seguendo con l'ufficio legale. Come ti dicevo Francesco, in realtà tante persone che vengono qua magari anche per altri motivi, però ci dicono: ah, ma noi abbiamo ricevuto delle bollette del gas stratosferiche, noi è dal 2016 che notiamo che siccome la bolletta è stata un po' adesso cambiata come voci, dovrebbe essere specificata meglio, notiamo che appunto quando andiamo a leggere sotto imposte IVA, molto spesso imposte IVA superano gli importi dei consumi, insomma c'è qualcosa che non quadra. E sono d'accordo con te, quindi occhio alla nostra bolletta del gas, leggiamola bene, cerchiamo di capire se ci sono delle incongruenze, e se ci sono o se avete dei dubbi, magari una buona telefonata per cercare di risolverli, prima magari con l'azienda che vi fornisce il servizio, ma poi anche insomma non fermiamoci lì, andiamo a chiedere lumi anche a qualche buona associazione di consumatori che secondo me ci può aiutare. E quindi Gianluca, state indagando per scoprire come mai ci sono queste bollette? Sì Francesco, noi adesso con l'ufficio legale, come facciamo sempre con le bollette da capogiro, le bollette pazze, qualcuno le definisce così, noi andiamo a chiedere il ricalcolo vero in questo caso alle aziende che forniscono in questo caso il gas, E Francesco, credimi che come da esperienza consolidata, dopo te lo racconteremo alla radio nelle prossime puntate, ma siamo quasi certi che queste cifre verranno, diminuiranno anche di molto. Tra l'altro, di recente abbiamo proprio una storia molto simile, è andata a buon fine ovviamente per l'utente che si è rivolta a noi, il quale appunto si era ritrovato con una bolletta Edison di 900 euro, addirittura si era ritrovato con il recupero crediti che praticamente lo stava martellando per avere questi soldi. In realtà abbiamo scritto e gli sono stati stornati tutti i 900 euro. Quindi consiglio veramente a tutti gli utenti, se ci si trova di fronte a una bolletta il cui importo è inspiegabile, bisogna rivolgersi assolutamente a un'associazione, ovviamente noi diciamo di rivolgersi a noi, però insomma un'associazione che possa tutelarli tramite i propri uffici legali, perché veramente tantissime volte ci sono o degli errori o comunque dei calcoli fatti stimati e non reali, che sono molto superiori in realtà al consumo reale. Quindi non fermiamoci a guardare la bolletta e a pagare se ci risulta strana, ma contestiamola. Sì, certe volte bisogna, come dire, impegnarsi un pochettino, stare là e questi due foglietti di carta che ci arrivano con i resoconti andarli proprio a spulciare bene per trovare, come certe volte capita, qualche errore. E ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, è il sito dell'Adico, lì trovate i contatti telefonici per anche poter contattare l'Adico. A questo punto ti confermo salutandoti che, come hai detto prima, è vero, stanno proprio cambiando molti contatori del gas nelle case e nei condomini. Grazie quindi a Gianluca Codognato, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.